e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e bentornati, siete pronti per una nuova settimana, belli carichi, proprio come Deborah, che la vedo qua radiosa. Mi vedi carica? Sì. Ah, meno ce male. Ce la facciamo! Ma sì, dai, anche se stamattina l'alzataccia c'è stata, perché sai che devo fare anche il collegamento di borsa delle 8 del mattino, quindi qua il lunedì si parte solo in teoria, in salita, perché noi partiamo sempre invece molto cariche. Allora... Il primo passo è quello che conta. Esatto. Ecco, come iniziamo la giornata. E a proposito di primo passo, primo giorno e prime parole, Deborah, ho letto che la principessina Charlotte, tu carina, mi racconti mamma. Sempre dei tuoi nipoti. Ma che belli che sono i figli di e anche William i tuoi nipoti e Kate, sì. E beh, comunque modestamente, sono è vero. Ecco, sono belli anche William e Kate ed è bella anche tua sorella e anche suo cognato. La principessina Charlotte ha detto la sua prima parola. Cosa ha detto? Pop. Ah, però, tu te la ricordi? Popolare. Tu te la ricordi la prima parola dei tuoi nipoti? Non me le ricordo, sì, vabbè, a parte il tradizionale mamma e papà, sono certa che abbiano detto papà. Ti racconto il compleanno della terzogenita, si dice, in occasione appunto delle feste, ovviamente notava che tutti mangiavano la sua torta, ha alzato un braccio e ha detto «Totta mia!». E così. Quindi il concetto è stato molto chiaro, mi è rimasta impressa quell'immagine insomma di Miriam. Andrà lontano esatto, Miriam. Esatto. Allora voglio girare la stessa domanda che ho fatto a Deborah, a voi. Vi ricordate la prima parola che hanno detto i vostri figli, i vostri nipoti o che cosa vi hanno raccontato di voi i vostri genitori? 800 24 00 24, vi aspettiamo. Nell'attesa però partiamo con la nostra rassegna stampa. E la rassegna stampa di questa mattina ha il profumo dei soldi e quella di denari e quella finanziaria e abbiamo allora intanto un andamento che appare positivo per i listini continentali. C'è un rialzo a Parigi dello 0,34%, Londra un po' più consistente in rialzo di un punto percentuale, Milano più 0,28%. Naturalmente continuiamo un po' a monitorare le vicende bancarie che riguardano nelle ultime settimane soprattutto la prima banca tedesca Deutsche Bank, ma poi chiaramente le ricadute sono su tutto il settore finanziario. Siamo reduci da una settimana in cui in realtà c'era stata la buona notizia della decisione dell'OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori di petrolio, che ha deciso appunto di intervenire sulla produzione di greggio tagliando la produzione giornaliera di oltre 700.000 barili, una circostanza che aveva ridato un po' di sostegno alle quotazioni internazionali. Questa era stata una buona notizia che aveva spinto le borse settimana scorsa, poi è arrivata la invece notizia negativa delle ultime novità in casa Deutsche Bank che ha fatto ripiombare un po' nell'incertezza gli operatori. Su quelli che saranno invece i temi da tenere sotto i riflettori questa settimana abbiamo interpellato un consulente finanziario, Pietro Calì, Copernico Sim, che salutiamo. Dottor Calì, buongiorno, benvenuto a Cuore Denari. Grazie, buongiorno a voi e buongiorno ai radiospettatori. Allora, aprirei proprio intanto su questa su queste prime battute della mattinata, perché in realtà la partenza è stata negativa, poi i listini continentali hanno recuperato terreno e in particolar modo ancora una volta a Milano sono una gran parte dei titoli finanziari a dare il sostegno a Piazza Affari che, come dicevo prima, guadagna adesso lo 0,28%. Come mai subito questo cambiamento di umore? Lei ha percepito qualche notizia stamattina? Sì, dunque le preaperture erano tutte negative, invece pare appunto che il FTSE MIB sia trascinato al rialzo da titoli come FCA, quindi titoli industriali che stanno facendo molto bene. Dal mio punto di vista rimangono comunque grandi incertezze. L'unica vera buona notizia è che oggi il DAX è chiuso, quindi Francoforte non trascina con effetti domino le banche italiane. Deutsche Bank rimane la grande sorvegliata, si parlava appunto di un possibile aumento di capitale, di importi davvero elevati. Deutsche Bank oggi capitalizza 15 miliardi e gli aumenti di capitale potrebbe aggirarsi intorno ai 22. Quindi diciamo che è consistente l'aiuto. Parliamo di miliardi in libertà, i 14 che dovrebbe pagare se non tratta e negozia le autorità americane per risolvere la controversia sui subprime. Qua miliardi come noccioline, Calì. Esatto, anche se c'è da dire che pare si sia ridotta questa quota da 14 miliardi a 5,4, anche se ancora non c'è nulla di certo. Detto ciò, meno male che almeno questa mattina il FTSE MIB è ripartito a rialzo, soprattutto con i titoli dell'economia reale, quindi gli industriali che stanno dando una mano ai titoli bancari. Esatto, c'è anche Campari che va bene, più 1,69, Exor, la holding di casa Fiat, più 1,22, anche se appunto i migliori in assoluto sono Azimut, il colosso indipendente del risparmio gestito, più 4,73, poi il Banco Popolare, la Popolare di Milano, le Promesse Spose, ormai però questo matrimonio è nei fatti e forse dal 1 gennaio del prossimo anno l'integrazione sarà definitiva, entrambi i titoli guadagnano il 3%. Allora, le ricadute delle vicende Deutsche Bank sul mercato bancario domestico. C'è comunque, a prescindere dal sereno che c'è stamattina, molta preoccupazione in molti ambienti, anche in quello politico, tanto che in questa giornata il ministro del Tesoro Padoan ha convocato al Ministero dell'Economia per fare il punto della situazione tutte le figure interessate a vario titolo, appunto alle vicende finanziarie nazionali ed internazionali. C'era anche molto mistero sull'orario di questo incontro, all'inizio era stato detto, era previsto per questa mattina, poi in realtà mi pare sia stato fissato per le 18 di stasera. Calì, secondo lei che cosa dovrà dire Padoan a Visco, ai rappresentanti delle maggiori banche italiane, anche i rappresentanti del Fondo Atlante ci saranno? Sicuramente, ecco, la crisi di Deutsche Bank non conviene a nessuno, quindi questa situazione destabilizza i mercati in maniera massiccia. Oggi si incontrarono appunto i vertici del Ministero delle Finanze insieme ai vertici di Ubi, della San Paolo, di Unicredit e dai vari rappresentanti delle altre banche. Secondo me in questa fase ci sono alcuni titoli che potranno pagare più di altri, anche se paradossalmente, e questa è una considerazione importante da fare, se Deutsche Bank venisse salvata proprio dallo Stato tedesco, ecco, questo potrebbe portare benefici anche alle nostre banche, quelle più colpite, quelle più martoriate dai mercati negli ultimi anni. Quindi non sono solo notizie negative, una risoluzione totale, una risoluzione globale da parte dell'Europa potrebbe davvero portare linfa all'Italia, che è stato, diciamo, l'agnello sacrificale in questi mesi. Quindi l'evoluzione della crisi di Deutsche Bank, qualora, anche se l'opinione pubblica tedesca non lo vuole, ci fosse un intervento dello Stato, appunto sarebbe anche paradossalmente una buona notizia per il nostro paese. Vedo intanto sul mercato valutario molto fermento, perché la sterlina poco fa ha toccato i minimi da 5 anni nel cambio con l'euro, e questo all'indomani delle parole del primo ministro Theresa May in Gran Bretagna sull'avvio delle procedure per la Brexit entro marzo 2017, ma prescindendo da questo, Calì, quali sono gli appuntamenti che voi come operatori in particolar modo monitorerete nel corso della settimana, tanto da dare anche delle indicazioni ai nostri ascoltatori sui temi più importanti che caratterizzeranno le prossime sedute sui mercati finanziari? Peraltro ricordo che in Cina mercati chiusi per tutta la settimana. Certo, le previsioni sul PMI manufatturiero in questa giornata saranno un argomento importantissimo, perché potranno davvero continuare a far rialzare gli stimi italiani. Ci sono diversi appuntamenti di una settimana, c'è anche l'appuntamento sulla statistica sull'occupazione americana. Esatto, venerdì. Si è dimostrata, esatto, molto molto importante al fine di giudicare o meno la capacità della Federal Reserve di rialzare i tassi di interesse. Diciamo che si apre un trimestre fondamentale anche dal punto di vista politico. Secondo me la fase più importante appunto di questo trimestre saranno naturalmente le elezioni americane, con un Trump che spaventa i mercati, spaventa il settore bancario, mentre invece, ad esempio, potrebbe portare beneficio ai titoli petroliferi, perché da questo punto di vista la politica di Trump potrebbe essere vantaggiosa per quelle aziende che esportano materie prime, e quindi ci potrebbero essere anche delle sorprese in positivo dal punto di vista delle materie prime, un po' meno dal punto di vista bancario. Stasera ci sono anche i dati sulle immatricolazioni di auto in settembre in Italia. 30 secondi, Calì, sul mercato obbligazionario, notizie degne di interesse da monitorare in settimana? Ma ad oggi non ci sono notizie particolari. Certo è che l'investitore risparmiatore italiano deve stare attentissimo al mercato obbligazionario, perché siamo a livelli molto alti, rendimenti risicatissimi, e oggi diventa meno conveniente approcciarsi a questo tipo di mercato. È difficile, ma purtroppo l'azionario rimane l'unico ambito, l'unico asset che può dare ancora soddisfazione ai risparmiatori. Sai, naturalmente sempre in un'ottica di lungo e quasi molto lungo periodo, ecco, direi. Di lunghissimo periodo ormai, però infatti, i margini sono lì. Grazie a Pietro Calì, Copernico Sim, per essere stato con noi. Abbiamo fatto l'apertura della settimana finanziaria, ci sentiamo presto. Intanto andiamo subito a sentire cosa succede sulle strade italiane, come è iniziata la settimana per il traffico. A tra poco. Cuore e denari. Con la mia cassa ancora con il nastro. rosa, un mese che dovrebbe durare 365 giorni, perché la prevenzione, l'informazione, l'attenzione alla nostra salute e al benessere dovrebbero essere una regola di vita, durare anche tutta la vita. Voi siete d'accordo? 800 24 00 24, parliamone insieme oggi in questa puntata che vuole ricordare a tutte e a tutti che la prevenzione del tumore al seno e la cura giusta quando la malattia viene diagnosticata sono le strategie più utili per avere il massimo della probabilità di guarigione, ma anche, voglio sottolinearlo, per mantenere una buona qualità di vita. Il nostro numero verde è pronto per accogliere le vostre domande, le vostre storie, le vostre richieste di chiarimenti, per parlare di prevenzione, cura, stile di vita e direi tutto ciò che riguarda il seno e il tumore al seno, dal punto di vista del cuore, inteso come salute, ma anche come coinvolgimento emotivo. Quindi vogliamo anche parlare di sentimenti, a volte contrastanti, paura, coraggio, fiducia, rabbia, emozioni tutte che, lo sappiamo bene, si attivano e si vivono quando la malattia entra nella nostra vita o in quella di un'amica, di una sorella, di una compagna, di una donna a noi vicina. Per questo venerdì vi abbiamo chiesto di scrivere delle storie e noi adesso ci rivolgiamo alle donne che hanno avuto una diagnosi e affrontato la malattia, ma vogliamo estendere l'invito anche a tutti coloro che hanno accompagnato una donna in questo percorso, quindi una sorella, un'amica, una moglie, una collega, e quindi le hanno dato quel sostegno necessario e sono stati un appoggio, un confronto nei momenti difficili, no? Scriveteci, perché vorremmo fare, passatemi il termine, una sorta di diario collettivo. Scriveteci, mandateci le vostre storie, ogni giorno la redazione ne selezionerà una e sarà commentata dalla nostra esperta. Ne parleremo naturalmente con tanti esperti, ma intanto iniziamo a salutare Maria Giovanna Luini, medico senologa, comunicatore scientifico e scrittrice. Ciao Giovanna. Ciao, buongiorno Rosa. Allora, buongiorno Rosa, aspettiamo le storie delle nostre amiche, ma non solamente le storie scritte da chi ha affrontato la malattia, ma da chi ha accompagnato, e quindi questo è un modo, un invito a dire anche ai compagni, agli uomini che fanno spesso fatica a trovare le parole, a tirare fuori quel disagio che si vive, quella paura, perché è una grande paura, e quella fatica che si prova quando si accompagna una persona che ti sta particolarmente a cuore ad affrontare questa sfida importante, di raccontarsi. Tiriamo fuori, perché le parole sono, aiutano a condividere, a superare le paure, le parole sono anche energia. Giovanna. Sì, è vero, compagni e compagne di persone che hanno avuto o hanno un tumore al seno spesso non sanno come approcciare, non sanno cosa dire, perché in realtà le posizioni diventano diametralmente opposte. Una è la paziente e l'altra o altro è la persona che cerca di aiutare. Le parole hanno un'energia, hanno un suono, hanno un carico d'amore, e quindi le parole sono curative. È bellissimo che voi stiate invitando a raccontare. E poi naturalmente contiamo sul tuo aiuto come medico, come senologa, ma anche come scrittrice, come donna che hai accompagnato nella tua professione, continui ad accompagnare, sì, tante donne, ma non ti fermi alle donne, ai loro compagni, alle loro sorelle, alle amiche, sì, perché dietro ad una persona che sta affrontando una malattia c'è sempre un gruppo, ci sono i familiari, ci sono gli amici, ci sono i colleghi, le persone che ti stanno vicino. Noi vogliamo raggiungere voi. Ottobre, dicevamo, il mese della prevenzione, questa parola, nonostante sia tutti familiare, ha bisogno un po' di essere spiegata, perché una donna su cinque sembra non avere ancora compreso i rischi legati a questa patologia oncologica, continuando ad esempio a non sottoporsi ad esami di diagnosi precoce. Giovanna. Quella di solito è paura, ma c'è anche una quota di disinformazione, oppure c'è ancora, per esempio, la vecchia informazione che l'autopalpazione sia uno strumento di diagnosi precoce. Questi sono meccanismi psicologici più che realmente, più che informazioni che si ricevono. Ho fatto l'esempio dell'autopalpazione. L'autopalpazione non è uno strumento di diagnosi precoce, è un'indicazione vecchia che serviva per dire alle donne: prendete coscienza del vostro seno. Ma qual è il punto? Il punto è che quando noi andiamo a farci gli esami abbiamo paura, perché ci sono quelle macchine che ci guardano dentro, allora a volte ci sembra un po' più comodo semplicemente toccare il seno. Perché cercando di avvertire qualcosa. Sì, sì. Il problema è che... No, è un problema reale, perché la diagnosi precoce del tumore al seno salva le vite davvero. C'è un rischio ridotto di morte per tumore al seno che è molto concreto grazie agli strumenti che oggi abbiamo, che poi variano in base all'età. L'idea è quella di trovare lesioni nel seno che siano così piccole iniziali o da non essere ancora tumori o da essere proprio tumori inizialissimi. Che con l'autopalpazione noi non riusciamo a trovare, per cui non fermiamoci a dire io mi controllo il seno tutti i giorni facendo la doccia, non avverto nulla. Non va bene. Certo che un'autopalpazione può... Aiuta perché si conosce però non fa diagnosi. Un dettaglio, oggi ancora esistono donne che fanno gli esami solo se credono di avere una familiarità per tumore al seno, che è incredibile, perché in realtà tutte le donne, a prescindere dalla familiarità e dei fattori di rischio, hanno una probabilità di avere tumore al seno. Una donna su 8 va incontro a tumore al seno. Nel nostro paese vige ancora la cultura dei 50 anni in età per l'avvio dello screening al seno, così come la cadenza della mammografia ogni 2 anni, ma il tumore va a colpire donne che non hanno ancora l'età per essere inserite in un programma o screening, e si assiste soprattutto in questi anni a un progressivo abbassamento dell'età in cui il tumore al seno si manifesta. Questo mi sembra sia un motivo in più per sensibilizzare tutte le donne alla cultura della prevenzione e rendere sempre più protagoniste. Lo ripetiamo tante volte, ma deve partire da noi. Dobbiamo imparare e convincerci che possiamo e dobbiamo proteggere la nostra salute, e questo è anche l'impegno di tante associazioni che lavorano per aiutare le donne proprio a prendersi cura della propria salute. Tra queste c'è la LILT. In linea con noi abbiamo il professor Francesco Schitulli, presidente della LILT. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Presidente, siamo arrivati alla 24esima edizione. Che cosa è cambiato? L'attenzione è rivolta anche alle donne giovani, perché i controlli, la sua collega Giovanna Luini lo anticipava, salvano la vita. Ma a partire da che età è importante? Ma io credo che l'autopalpazione sia una forma educativa nei confronti della donna, cioè la donna acquisisce in questo modo una certa confidenza con questo organo. Si pone il problema che le stesse ragazze si pongono dopo aver avuto un primo rapporto sessuale, e quindi si sottopongono al papa test. La stessa cosa vale per la mammella, che è l'organo, il big killer numero uno per quanto riguarda il cancro. Non dimentichiamo che il 29% delle donne che scopre di avere un tumore, questo tumore nel 29% dei casi si localizza al seno. E qui quindi l'importanza anche di questa pratica, anche per non solo per acquisire una sorta di confidenza con questo organo, ma di porsi proprio il problema con una sorta di coscienza aperta nei confronti di questa problematica. Però dovremmo anche cercare noi, le istituzioni, di venire incontro a queste esigenze, sia insegnando alle ragazze come effettuare l'autopalpazione, visto che purtroppo il 36% delle donne scopre ancora oggi di avere scopre un nodulo al seno, e questo nodulo, quando lo scopre è già tardi. Ma si è perso del tempo prezioso. Professor Schitulli, grazie per l'impegno. Le iniziative della LILT le trovate sulle nostre pagine. Ringraziamo il professor Schitulli e diamo la linea al nostro GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, una prevenzione tutta al femminile che è raffigurata con un nastro rosa, rosa il colore delle donne, rosa il colore di tutto ciò che è tipico della femminilità. Vi piace questo fiocchetto rosa? Siete d'accordo? 800 24 00 24. In studio siamo tutte donne, insieme a me, a Deborah, c'è la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico, senologo, comunicatore scientifico e scrittrice. Parliamo dei controlli. Giovanna, ci aiuti a capire quando bisogna iniziare a fare, dato che si assiste ad un progressivo abbassamento dell'età in cui il tumore al seno si manifesta, va a colpire delle donne giovani che sono attualmente fuori dai programmi di screening. Sì, lo screening ci aiuta, però noi dobbiamo essere consapevoli e scegliere per noi, aggiungere quello che va aggiunto. Circa dai 30 anni dovremmo iniziare con l'ecografia mammaria, che è un esame molto prezioso e che dovremmo ripetere ogni anno, e non abbandonare mai fino a oltre i 60, quando sono i radiologi a dirci di smettere. Dai 40 anni aggiungiamo la mammografia, esame altrettanto importante. Tra i 40 e i 50 di solito si fa ogni 2 anni, anche se esiste uno studio che dice che probabilmente andrà fatto ogni anno. Dai 50 anni in poi non c'è dubbio, esame annuale, mammografia e ecografia mammaria, che sono 2 esami diversi e tra loro complementari. Voglio aggiungere che la mammografia non dovrebbe mai essere interrotta. Ci sono donne che dopo i 70 anni decidono basta. L'ho scampata fino adesso, basta. Il rischio di tumore al seno purtroppo aumenta con l'età, e quindi la mammografia è un esame che resta fondamentale tutti gli anni a qualsiasi età. Allora, siamo alle solite, ci scrive un ascoltatore su WhatsApp. Non state parlando di prevenzione, ma di scoprirla più presto la malattia. La prevenzione è capire perché ci si ammala sempre di più e sempre più giovani. Ma questo sembra non interessare gli scienziati. Su quest'ultimo aspetto non sono d'accordo. No, ma io direi che a questo punto cosa facciamo secondo questo signore? Visto che oggi siamo qui, oggi siamo donne che hanno l'esigenza di scoprire presto un eventuale tumore al seno. Oggi le indicazioni sono queste. La prevenzione di cui ho parlato si chiama secondaria. Certamente va a trovare lesioni che già ci sono, ma questo scoprire lesioni che già ci sono e sono piccolissime salva la vita. Quindi non è vero che non stiamo interrogando noi stessi e le cellule per capire come mai vengano i tumori. È che oggi le persone, le donne, hanno il diritto di vivere e di essere curate bene. Non possiamo aspettare di scoprire i meccanismi dei tumori e poi agire. Allora, un'ascoltatrice che ci scrive: giovedì farò la mia prima mammografia. Ho 44 anni, probabilmente avrei ancora rimandato se mia sorella non fosse stato diagnosticato un tumore. Lei ha sempre eseguito una volta l'anno la mammografia. A 6 mesi da quest'ultima, casualmente si è sentita con autopalpazione un nodulo, ci scrive Nadia. Questo messaggio di Nadia io lo leggo perché ci dà tantissimi spunti. Allora, la prima mammografia, 44 anni, fa la sua prima mammografia e Nadia fa bene. Ci racconta però che la fa perché sta vivendo con la sorella questo problema, che scrive: la sorella ha sempre fatto tutti i controlli e poi ha scoperto. Ed è una cosa che noi ci diciamo, pensa, ha scoperto di avere un tumore al seno, si è sempre controllata, quasi che ci sentissimo traditi. Ecco, anche in questo caso vorrei proprio spendere questa parte della trasmissione a dare un significato preciso alle parole. Certo. Ecco. Beh, intanto bisogna capire che cosa significhi ha fatto sempre tutti i controlli, perché esistono controlli utili e controlli magari un po' meno utili. Però è altrettanto vero che anche nelle persone che si sottopongono con regolarità ai controlli giusti per età, può capitare che ci sia una diagnosi di tumore al seno un po' vicina, oppure diciamo piazzata in modo un po' sospetto rispetto ai controlli recenti. Alcune volte è perché esistono tumori un po' veloci che hanno quindi una biologia rapida e allora vengono fuori nonostante un controllo recente negativo. Altre volte, va detto, c'è un errore diagnostico, perché può succedere in alcuni casi che chi ha eseguito e letto gli esami abbia commesso un errore. Devo dire che con la valutazione doppia, per esempio, degli esami di screening, la mammografia di screening, diventa abbastanza difficile che ci sia l'errore. Però, insomma, bisogna ammettere che può capitare anche che ci sia l'errore. Nonostante i numeri sono importanti, grazie ai progressi compiuti dalla medicina e dalla ricerca scientifica, in 20 anni, no, le guarigioni, il numero delle guarigioni è stato raddoppiato, sì. È sempre un tumore sempre più curabile. La strategia migliore rimane sempre la prevenzione, ma se la malattia si manifesta, disponiamo di terapie, di strumenti sempre più efficaci, ad esempio una chirurgia meno invasiva e meno mante, una radioterapia più precisa, farmaci, sì, antitumorali sempre più mirati, calibrati, mirati, il tutto, sì, nell'ottica di risparmiare tessuto sano, eliminando invece quello ammalato. Saluto con piacere il professor Armando Santoro, che è in linea con noi, direttore dell'Humanitas Cancer Center, responsabile dell'oncologia ed ematologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, nonché ordinario di oncologia presso l'Università Humanitas. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Professore, allora, quando parliamo di tumore, quando parliamo di diagnosi, arriviamo alla parola che fa tutto, sempre a tutti paura, chemioterapia. Che cosa è cambiato negli anni? Abbiamo assistito, abbiamo letto di storie di donne che, nonostante i consigli del proprio curante, abbiano rifiutato la chemioterapia. C'è sempre questa, no, questa etichetta di, sì, un veleno che danneggia, no, tutte le cellule. Ma qualcosa è cambiato, professore? Direi che è cambiato tantissimo, quasi tutto. Il primo di tutto è cambiato grazie a una diagnosi sempre più precoce, per cui comunque quando noi diagnostichiamo un tumore alla mammella piccolo senza interessamento dei linfonodi, spesso non è necessario fare i trattamenti preventivi, successivi, aggressivi, quale potrebbe essere la chemioterapia. Quindi comunque una diagnosi precoce sottoposta a campagne di screening è il miglior modo per evitare di dover fare dei trattamenti tipo chemioterapico. In ogni caso poi, qualora si dovesse fare un trattamento di tipo chemioterapico, cosa che ancora succede, anche in qualche raro caso di donna che si sottopone allo screening regolarmente, perché alcuni tumori, una piccola percentuale di tumori alla mammella possono essere anche dei tumori particolarmente aggressivi, beh, direi che anche in quei casi abbiamo oggi dei farmaci, delle molecole molto meno tossiche di quelle di una volta, e in più abbiamo una serie di antidoti per evitare e prevenire questi effetti collaterali che rendono sempre più tollerabile il trattamento chemioterapico, tant'è vero che quello che lei citava di pazienti che rifiutano il trattamento, ecco, fortunatamente è sempre meno questa percentuale, è sempre più quella che, quando deve essere fatta, accetta comunque di fare la terapia. Professor Santoro, ogni tumore è diverso dall'altro, anche quelli che colpiscono lo stesso organo. Non esiste solo un cancro del seno, ma ogni caso è a sé e va affrontato in modo differente, e questo spiega anche l'impegno della ricerca per individuare strategie, direi, sempre più personalizzate e mirate, strategie che, mi passate il termine, proprio cucite su misura per vincere il tumore. Ci aiuta a dare un significato più preciso a queste parole, magari con un esempio? Ma senz'altro, l'esempio del tumore della mammella è un esempio assolutamente calzante. Il tumore della mammella, potrei dire, ci saranno almeno 30-40 tipi di tumore diverso. Il tumore della mammella dipende dalle dimensioni del tumore, dal fatto se ci sono interessati i linfonodi o meno e quanti sono interessati, ma poi anche alcune caratteristiche sono tipiche del tumore: la sensibilità alle terapie ormonali, l'espressione di alcune proteine tipiche di alcune forme tumorali come l'HER2, tutte queste caratteristiche non solo condizionano una prognosi diversa, ma oggi consentono anche di fare dei trattamenti altamente mirati, dei trattamenti personalizzati, anche quella che viene definita precision medicine, cioè quello di identificare sempre più accuratamente quelle che sono le caratteristiche delle cellule tumorali in quella determinata paziente e mettere, attivare un trattamento che sia specifico per quel determinato tipo di tumore in quella paziente. Negli Stati Uniti quest'anno il Presidente Obama ha fatto un stanziamento estremamente consistente, ha lanciato la campagna proprio della Precision Medicine Oncology, hanno investito miliardi di dollari per 5 anni proprio per sviluppare al massimo, anche nell'ambito del territorio americano, questa ricerca mirata ad identificare delle caratteristiche specifiche dei singoli tumori con l'obiettivo di arrivare a trattare in maniera personalizzata ogni singolo caso. Professore, si sente sempre più parlare di immunoterapia dei tumori, una terapia innovativa che ha proprio come obiettivo quello di stimolare le difese dell'organismo a difendersi dal cancro. Sì, ovviamente sì, e oltretutto in questi ultimi anni l'immunoterapia è stato veramente quello che viene definito il breakthrough, cioè l'innovazione che sta cambiando l'atteggiamento terapeutico nell'ambito dei trattamenti oncologici in genere. L'immunoterapia parte da un principio noto da svariati decenni, che è quello di stimolare le difese dell'organismo contro le cellule tumorali. Ma mentre tutti i tentativi di 50 anni fino a 8-10 anni fa erano andati totalmente falliti, hanno dato risultati estremamente negativi, oggi è cambiato totalmente l'approccio all'immunoterapia. Oggi abbiamo dei farmaci che riescono a liberare le cellule del nostro organismo che servono a difenderci. È un meccanismo, quasi non attaccano direttamente al tumore, ma aumentano le nostre capacità di reazione contro le cellule tumorali. E quindi questa è sicuramente una svolta importante, si cambia proprio paradigma, professore. Esattamente, si cambia paradigma con risultati direi estremamente interessanti, che sono oltretutto trasversali ai vari tipi di tumore, perché mentre noi eravamo abituati ad avere dei farmaci chimioterapici o delle terapie biologiche abbastanza mirate su alcuni tipi tumorali o su alcune caratteristiche di alcuni tipi tumorali, oggi abbiamo un trattamento che può funzionare in tantissime forme tumorali, e i dati che abbiamo già confermano questa sensazione. Oggi già abbiamo dimostrazioni chiare che l'immunoterapia funziona in maniera eccellente nel melanoma, in alcune forme di tumore polmonare, nel tumore renale, in alcune forme di linfoma, nei tumori del distretto torino, quindi un largo gruppo di patologie che ricavano un innegabile e consistente beneficio dalle terapie immunologiche. Professor Santoro, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata, probabilmente ci risentiremo perché stiamo aspettando il Nobel della medicina, ma chissà. Magari... Speriamo che sia l'immunoterapia. Speriamo, perché sono proprio i nomi, ci sono, ma insomma vediamo se saranno loro. Professore, speriamo di risentirci presto, grazie, a tra poco. Sì, grazie a lei, forse. Buongiorno a tutti. Giovanna Veronesi ha più volte detto che non è difficile togliere un tumore dal seno di una donna, il difficile è toglierlo dalla testa. Ti cito Veronesi, sì, che è il tuo maestro, con cui tu hai scritto tantissimi libri, sì. Tra l'altro, a proposito di libri, Giovanna ha portato per tre delle nostre ascoltatrici L'età della donna, Diario del corpo femminile, alle prime tre ascoltatrici che da ora fino alle 11:30 chiameranno il nostro numero verde, lo faremo naturalmente arrivare. Perché questo, Giovanna ci racconta che il difficile non è sopravvivere e guarire dal tumore al seno, ma sopravvivere alla vita e alla difficoltà che un cancro al seno comporta, sì, nella testa di una donna per quanto riguarda il rapporto col proprio corpo, con i figli, col marito, l'inserimento nel lavoro. Deborah abbiamo dedicato anche una puntata a questo, che può essere molto, per questo parte questa nostra iniziativa. Ogni giorno una storia, non solamente scritta da una donna, ma anche da un compagno, da un uomo, da un collega, per raccontare questo universo. Giovanna, sì, tu sarai un po' il nostro fil rouge, perché sfrutteremo le tue competenze di scrittrice, di donna, di senologa. E sarò felice di farlo. Sì, la mente è ciò che ci muove, muove anche il corpo. Noi non siamo la malattia se ci ammaliamo, questo è il punto, questo è ciò che Veronesi vuole dire, e l'ha detto molto bene Emma Bonino. Su questo io vorrei chiudere il ragionamento. Emma Bonino ha detto: io non sono la mia malattia, nessuno è la propria malattia, noi siamo persone, collateralmente a volte possiamo sviluppare malattia, ma non lo diventiamo. Allora, noi vi aspettiamo con le vostre storie, mandatecele via mail a cuoredenari@radio24.it, ne pubblicheremo una al giorno per fare una riflessione generale. Quindi io inviterei anche proprio le persone a confrontarsi su queste pagine, proprio per sottolineare quanto Giovanna ci ha anticipato. Sulle pagine di Cuore Denari trovate un'intervista al dottor Franco Berrino, professore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale Internazionale dei Tumori, un uomo che ha dedicato molto del suo impegno proprio per capire il ruolo, vita. La sua vita, sì. Di medico, di ricercatore, il ruolo dell'alimentazione nella prevenzione del tumore, ma anche il ruolo dell'alimentazione nel aiutare a allontanare le recidive, trovate un prima, durante e dopo, quindi nella nostra pagina di Cuore Denari con i suoi approfondimenti. Giovanna, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Io lascio la parola alla mia compagna. Sì, esatto, pronta però a richiedere la linea, Nicoletta, no, non appena avremo il nome del Nobel della medicina questa mattina e commenteremo anche insieme sia il profilo di chi si aggiudica naturalmente questo eccezionale riconoscimento, ma poi anche appunto tutta la branca medica che E così leggiamo anche Valeriano Valeriano ci racconta che il sistema immunitario si rafforza con l'alimentazione e ci dice che magari dare più informazioni su questo servirebbe ha perso qualche puntata però si può rifare andando a sentire ad esempio l'intervista del dottor Berrino credo che su questo aspetto abbia fatto storia, non dico come l'abbiamo un po' supportato. Grazie Valeriano per questo suggerimento prezioso. Però c'è la pensione, però c'è la pensione. Questa non ve l'aspettavate questa mattina, no, eh? Però io saprei ballarla. No, è che noi vorremmo rendere lieto questo pensiero, il momento della pensione. In realtà per molti lavoratori ultimamente pensare al momento di staccare dalla vita lavorativa per passare a quella, appunto, alla vita da pensionato è un incubo per molti, perché molti vorrebbero andarci in pensione ma non riescono, così acchiappano e si vedono sfuggire i requisiti necessari per poter accedere appunto all'assegno pensionistico. Altri invece magari sono in giovane età lavorativa e sono un po' ossessionati da questo dibattito in corso, perché continuiamo a volere con insistenza far passare a tutti i ragazzi che in pensione non andranno mai, invece devono fare un po' anche da sé con il sistema privato. Detto questo, stamattina circoscriviamo un po' il nostro argomento. Allora, come ricorderete, c'è stato l'importante incontro settimana scorsa fra governo e sindacati per discutere delle novità che riguardano i lavoratori che vorrebbero andare in pensione un po' prima rispetto ai requisiti di legge che negli ultimi anni, per effetto delle riforme che si sono susseguite, lo sapete, sono diventati un po' stringenti. Sono state concordate tante iniziative importanti, oltre ad APE, l'assegno pensionistico, appunto, il prestito pensionistico appunto per andare in pensione anticipata, e la RITA, la rendita integrativa. Sono in arrivo anche altre norme per accelerare la flessibilità in uscita. Allora, quella che vogliamo approfondire oggi è la ricongiunzione dei contributi, che sarà resa gratuita. Chi ha versato in gestioni pensionistiche diverse, anche in quella separata, potrà cumulare gratis tutti i contributi, inclusi i periodi di riscatto della laurea, e quindi incassare un assegno unico pensionistico calcolato pro rata con le regole di ciascuna gestione. Come funziona adesso? Cosa cambierà? Quali differenze con gli altri istituti in vigore, vale a dire la totalizzazione dei contributi e il cumulo, perché ne abbiamo tre di istituti che permettono appunto di uniformare magari una storia pensionistica un po' complicata e frastagliata. Tornata a trovarci, Andrea Carbone, partner di Progetica, benvenuto, buongiorno. Buongiorno Deborah. Allora, intanto naturalmente c'è lo spazio anche per voi all'800 24 00 24. Stavamo riguardando anche l'articolo che stamattina il Sole 24 Ore dedica a questo argomento, e ovviamente c'è un focus anche su quei lavoratori che stanno già provando a fare la ricongiunzione, che fino ad ora è stata onerosa, non è gratuita in questo momento, e molti già dicono: ma io lo sto pagando, e adesso perché per i nuovi sarà tutto gratuito? Cosa succederà? Bella gatta da pelare anche questa per il governo. Al momento, Carbone, ricordiamo che è stata raggiunta solamente un'intesa, solamente molto importante, tra governo e sindacati, ma un provvedimento che definisce tutto questo non ce l'abbiamo ancora. No, al momento abbiamo il documento d'intesa del 28 settembre, il quale al punto 3 dice cumulo gratuito dei periodi contributivi. Quindi non parla neanche esattamente di ricongiunzione, non tocca i due istituti più importanti che già conosciamo, tocca solo il terzo. Apparentemente sì, perché cumulo è un'espressione specifica che riguarda una delle tre possibilità oggi a disposizione dei lavoratori per unificare la storia contributiva. Ma secondo lei allora perché... ci metto la stampa di mezzo, naturalmente è stato enfatizzato il fatto che sarà la ricongiunzione ad essere resa gratuita. Secondo lei l'obiettivo è anche quello? Ma allora, sono tre istituti simili, in fondo, che hanno un unico obiettivo, che è tecnico. Se noi dovessimo affrontare le cose per quello che sono, un lavoratore fa un po' il dipendente, un po' l'autonomo, un po' la gestione separata, un po' altre... E che cosa desidera? Che i suoi contributi diventino una storia contributiva unica. Ma io posso far banalmente l'esempio dei giornalisti, no? Non tutti quelli che lavorano con me, me compresa, hanno una storia tutta cristallina di contributi versanti all'INPGI, che è il nostro istituto di previdenza. Abbiamo tutti delle esperienze professionali pregresse, magari qualcuno ha un passato all'INPS e qualcuno all'EMPALS, e quindi, per esempio, già, anche se molto semplice, ci sono due storie contributive che devono essere rese omogenee. Esattamente, quello che sembrerebbe intuitivo, cioè rendiamo la storia unica, per storia di come funziona la previdenza in Italia, non lo è per niente, perché faccio anche il mio esempio: io sono stato dipendente e adesso gestione separata, è sempre INPS, è sempre la stessa gruppo, ma io ho un conto corrente previdenziale, contributi presso la cassa dipendenti e uno presso la gestione separata, quindi intuitivamente è semplice, io ho una storia contributiva. A livello pratico c'è bisogno di queste norme, ricongiunzione, totalizzazione, cumulo, magari poi le vedremo, che permettono di tecnicamente mettere insieme la storia. Allora, noi tecnicamente metteremo insieme le vostre storie, se possibile, spiegandovi esattamente come funziona allo stato attuale la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo dei trattamenti pensionistici, cosa potrebbe cambiare alla luce di quello che sappiamo fino a questo momento. Ci fermiamo, c'è la borsa, voi intanto però prenotate i vostri interventi, ci sentiamo tra pochissimo. Amore, il frigo è rotto. Addio nuova TV. No, e le serie? Un TV davvero grande. Te lo regala Expert. Smart TV Telefunken 43 pollici Full HD in regalo se acquisti il frigo combinato Hotpoint e congelatore No Frost in classe A++. A soli 599 euro e se vuoi paghi in 10 mesi a tasso zero. Tan fisso e tag zero, zero spese, salvo approvazione della finanziaria. Operazione a premi valida nei negozi aderenti dal 29 settembre al 16 ottobre 2016. Regolamento disponibile su expertonline.it. Grazie. Expert. Gli esperti siamo noi. Banca IFIS Impresa, la banca delle imprese che fanno l'Italia. Finanziamo le aziende grazie all'anticipo del credito commerciale. Vuoi più liquidità per la tua impresa? Contattaci subito su bancaifisimpresa.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Vedi sezione trasparenza su bancaifisimpresa.it. I tuoi denti si muovono? Sono sensibili al caldo e al freddo? Le tue gengive sono infiammate? Si sono abbassate? Soffri di alitosi? Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Ma un'alternativa c'è. Cliniche EDN. Dalla nostra ricerca, la cura non invasiva con il microscopio e il laser. Prenota una visita nella sede più vicina a te, all'800 090 106 o su parodontite.it. Non perdere tempo. Salva i tuoi denti. Evita gli impianti. 800 090 106. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Eccoci ritrovati, ancora nessun Nobel all'appello, ma vi daremo prontamente la notizia del, appunto, Nobel alla medicina. Intanto andiamo avanti con Andrea Carbone, partner di... Eccolo qua. Breaking news. Ed eccoci qua appunto per l'annuncio del Nobel per la medicina, che va a un professore di origine giapponese, Yoshinori Ozumi. È un biologo cellulare specializzato nell'autofagia e insegna professore a Tokyo. E allora adesso interpreteremo anche naturalmente gli studi di questo luminare, no, Nicoletta? E certo, la commenteremo sicuramente con i nostri esperti per capire esattamente che ricadute può avere, che possono avere gli studi di questo Nobel per la nostra prevenzione, per la nostra salute. Per vivere sempre di più e prendere la pensione come meritiamo, nonostante qua ci si complichi sempre un po' la vita. Allora, Andrea Carbone, partner di Progetica, abbiamo detto che alla luce delle novità che stanno arrivando, al momento frutto frutto dell'accordo preso fra governo e sindacati, prossimamente parleremo sempre di più di cumulo dei trattamenti pensionistici in via gratuita, non di ricongiunzione e totalizzazione, come erroneamente continuiamo a dire, almeno a giudicare dal testo dell'accordo fra governo e sindacati. È il cumulo, il, come dire, l'obiettivo del prossimo intervento del governo. Carbone. Sì, la ricongiunzione di cui tanto si è parlato è un istituto che esiste dal 1979 e poi esteso nel 1990 con due leggi che dicono che cosa? Che tutti i lavoratori, quindi INPS, gli ex INPDAP, ex EMPALS, INPGI, autonomi, artigiani, commercianti, ma anche i fondi sostitutivi, quindi ferrovieri, elettricisti, volo, tutte le casse che abbiamo in Italia, comprese quelle degli avvocati, ingegneri, dottori commercialisti, eccetera, che possibilità hanno con la ricongiunzione? Quella di spostare interamente la storia contributiva che era separata in uno o più casse all'interno di un unico fondo. Non è necessariamente l'ultimo, quello a cui si sta versando nel momento in cui si sta andando in pensione, può essere anche un intermedio, il primo a cui si è iniziato a versare. È una scelta che si fa, che ha una caratteristica però ben precisa. Innanzitutto che può essere fatta soltanto una volta. O al limite una seconda volta, trascorsi 10 anni, ma sempre nella stessa cassa che era stata scelta. Quindi è un ragionamento da fare con calma e attenzione, esattamente, sì, perché si fa solo una volta, e ha la caratteristica di essere sempre oneroso. Perché, possiamo provare a spiegare a livello intuitivo, è evidente che se uniamo delle situazioni, delle casse previdenziali che hanno regole diverse, una cassa versa più contributi, l'altra meno, mettere e spostare le storie contributive all'interno di una può creare che magari si viene da una cassa più favorevole o meno favorevole. C'è uno sbilanciamento che va compensato, esatto, in qualche modo, dobbiamo compensarlo di tasca nostra. Esattamente. Che conviene secondo lei farlo intanto, per capire come si fa a valutare la convenienza economica dell'imbarcarsi in un'operazione finanziaria di questo tipo? La parola chiave è proprio la convenienza, perché molte casse oggi sono simili, quindi hanno regole simili, altre casse invece hanno regole profondamente diverse da due punti di vista, o di minori contributi versati o di data di pensionamento. Nel 2010, quando fu fatta la famosa norma che rendeva oneroso il passaggio dall'INPDAP all'INPS, era frutto del fatto che c'era appena stato un cambiamento delle regole di età pensionabile, in particolare per il mondo femminile, e quindi è proprio una questione di convenienza economica. Allora, oggi si sta ragionando di modificare o di far evolvere questi meccanismi, ma, come dicevi, stando alle parole testuali citate nell'accordo, non dovrebbe essere la ricongiunzione in quanto tale, cioè lo spostamento di tutti i requisiti, di tutti i contributi all'interno di una cassa, l'oggetto della possibile riforma. Perché? Perché ci sono altre due possibilità. La seconda possibilità è chiamata totalizzazione, che è un istituto a parte, che ha delle regole diverse, anch'esso riguarda tutte le tipologie di lavoratori, ma ha una regola ben precisa, cioè che si va in pensione con una caratteristica propria, si va con 65 anni e 7 mesi, con almeno 20 di contributi, più una finestra di 18 mesi, quindi è una regola, lo vedete, diversa dalle altre, che recupera le famose finestre, oppure si può andare anche con 40 anni e 7 mesi, che ci sono come un qualcosa di vecchio, perché erano i vecchi requisiti dei 40 anni, più 21 mesi di finestra. In sostanza, delle regole specifiche che permettono di avere un calcolo di pensione pro quota, quindi si mettono insieme pezzi di pensione in ogni cassa e fondo professionale, e la totalizzazione, è importante dirlo, è innanzitutto gratuita. E in secondo luogo, tendenzialmente si usa il sistema di calcolo contributivo, salvo che all'interno della cassa, dove magari il lavoratore era con il sistema misto o retributivo, quindi più favorevole, avesse già maturato il requisito per la pensione all'interno di quel pezzettino di carriera. Tradotto, è un requisito che ha una diversa data di pensionamento. Sì. Probabilmente in molti casi porta un assegno pensionistico un po' più basso, perché il calcolo è interamente contributivo, e questa è la totalizzazione. Terzo istituto si chiama cumulo. Il cumulo esiste in varie forme, dal 1990 disciplina il caso dipendenti autonomi, si mette insieme la storia contributiva, e dal 2012 riguarda anche gli ex INPDAP, gli ex EMPALS, ferrovieri, telefonici, riguarda molti lavoratori, ma non i liberi professionisti, ad esempio, quindi ingegneri e architetti. Allora, il cumulo dice: se io non ho maturato il requisito alla pensione in nessuno dei miei pezzi di storia contributiva, in quel caso posso andare con il requisito di vecchiaia, quindi quello di età, con una pensione pro quota con ogni sistema di calcolo originario. Questo è il cumulo. Che sarà gratuito. Fino adesso era oneroso? È sempre è stato gratuito. Però quindi, aveva questi limiti, che non si poteva andare per anni di contribuzione, ma solo per requisito di età. Allora, in questo senso, leggendo l'accordo con i sindacati, si dice che questo cumulo gratuito dei periodi contributivi potrà riguardare sia le pensioni di vecchiaia, quindi chi va per età, che le pensioni anticipate, quindi chi va per anzianità contributiva, e anche nelle ipotesi in cui sia già stato maturato il diritto alla pensione in uno dei pezzi. Senza usare forse parole tecniche, vuol dire rendere più facile mettere insieme la propria storia contributiva. Esattamente. Allora, 800240024 è il numero verde che vi consente, come sempre, di interagire con noi, farci delle domande. Se proprio in questo momento state facendo un ragionamento su quale opzione sia la più conveniente per voi, è chiaro che già la parola convenienza e spendere qualcosa per andare in pensione non è per nulla conveniente, ma magari qualcuno che potrebbe avere interesse a fare in questo momento una ricongiunzione onerosa, aspettando anche senza aspettare magari il nuovo provvedimento del governo che potrebbe fare luce su invece questa enfasi data al tema della ricongiunzione non più onerosa. Beh, con i tempi che corrono, a maggior ragione di fronte a possibili mutazioni normative, ecco, il consiglio è aspettare a capire cosa sta per succedere. La ricongiunzione in effetti onerosa non è mai piaciuta, ricordiamo che fino al 2010 era gratuita per la ricongiunzione verso il fondo dipendenti, mentre era già onerosa per la ricongiunzione della carriera di tipo lavoratori autonomi. Diciamo che tendenzialmente si tratta di convenienze. Il suggerimento oggi è di aspettare e capire cosa sta succedendo, certo, perché in effetti a nessuno avrebbe da dire conviene oggi spendere denari. Esattamente. No, poi c'è anche l'altra bella gatta da pelare, come l'ho definita prima, di chi sta già versando, magari lo sta facendo già da qualche... Mediamente per quanti anni si deve versare? Da che cosa dipende, appunto? C'è un range di anni? Ci sono due possibilità, esatto. O si può pagare in una unica soluzione subito, o si può rateizzare con una durata che deve essere inferiore alla metà del periodo ricongiunto. Quindi questi sono i due paletti. Tutto quello che si versa naturalmente è deducibile da un punto di vista fiscale. Chi già sta pagando di fronte a un'iniziativa di questo tipo dovrà in qualche modo essere tutelato, perché insomma si ipotizza anche la possibilità che possa essere sospeso il piano di versamenti, ma uno si chiede anche, ma insomma tutto quello che ho versato fino a questo momento chiaramente varrà anche ai fini poi del calcolo dell'assegno pensionistico, non è che va tutto evidentemente perso, soprattutto quelli che poi hanno versato tutto in una rata oltre che a mangiarsi il gomito. È il problema che c'è sempre quando c'è un'iniziativa che va a interrompere e modificare un qualcosa. Diciamo che la differenza grossa oggi è tra chi è nel sistema contributivo non ha problemi, perché i contributi che versa valgono tutti per il montante contributivo e quindi per la pensione. Il problema era per chi era nel sistema misto retributivo, dove quei contributi servivano a riequilibrare che cosa? Il fatto che i contributi versati erano meno che proporzionali, meno che sufficienti alla pensione maggiorata grazie alla ricongiunzione. E quindi lì è più un tema di equità che di recupero dei contributi versati. Allora, siamo pronti a sentire suggerimenti per chi è in viaggio, B, a sentire i nostri ascoltatori che hanno già delle domande da farle. Allora, avete capito che qua si possono fare solo sommariamente dei commenti di carattere generale. Quindi io voglio fare questa raccomandazione agli ascoltatori. Noi raccogliamo certamente le vostre situazioni, darvi una consulenza strapersonalizzata. Per noi non è difficile, è impossibile, perché dobbiamo Andrea Carbone, studiare le carte, le vostre storie contributive per cui è molto complicato. Da ogni caso cercheremo di esprimere delle considerazioni di carattere generale che possano servire a tutti, poi se Andrea ce la fa andiamo quanto più possibile al dettaglio, però abbiate pazienza. A microfoni spenti riusciamo quasi sempre ad accontentare molte persone, a fare delle consulenze un po' più personalizzate. A microfoni aperti è un po' più complicato, però Paola, arriviamo subito da lei. Cuore e denari. Naturalmente, come nelle attese, appunto, molti ascoltatori ci stanno anche scrivendo al 349-238-6666, ci stanno raccontando tutta la loro storia contributiva. Ho versato 4 anni qui, 10 qui, 5 là. È molto complicato per noi potervi dare delle indicazioni pratiche e concrete sulla vostra situazione. Ci proviamo, ma abbiate pazienza se non, naturalmente non ce la facciamo così al volo a dirvi tutto quello che vorreste sapere. Paolo da Milano, proviamo, buongiorno. Buongiorno, ringrazio lei e i suoi ospiti. Grazie. Per il programma estremamente interessante. Grazie Paolo. Io faccio il medico, ho 50 anni. Ho lavorato dal 97 al 2006 in un ospedale pubblico, dopodiché mi sono licenziato e svolgo l'attività di libero professionista. Quindi la sua storia contributiva è formata da che cosa? È formata da due periodi, uno legato alla sanità pubblica, in posto pubblico, e uno in sanità convenzionata, quindi come libero professionista. EMPAM. Esatto, EMPAM. Ora, a questo punto, quello che è in me e in gran parte dei miei colleghi è un'estrema confusione circa di quello che sarà il nostro futuro pensionistico. Penso che è in ottima compagnia in questo periodo. Né un fiscalista, né un commercialista, né un consulente del lavoro mi ha dato una risposta univoca su quello che debba fare. Tralascio il riscatto di anni di laurea specialità, l'anno e mezzo da militare medico, che è ancora tutta un'altra faccenda. Ma in pratica, poi avete anche quella grana lì, l'anno del militare. Che sembrava fosse gratuito finché ero dipendente della sanità pubblica, adesso sembra che non lo sia più. Due persone mi hanno dato due risposte diverse. A questo punto io sto fermo perché... Certo, noi le daremo la terza, Paolo, e sarà quella vincente, speriamo. E io vi ringrazio molto e vi ascolto con piacere. Grazie Paolo. Allora proviamo, quantomeno intanto, l'anno del militare... L'anno del militare nel mondo IMSS da sempre è gratuito. Gratuito ed è contemplato nella storia contributiva. Esattamente. Primo Paolo, quindi vabbè. Comunque adesso, prima di rispondere a Paolo, si stupiva Carbone, ho visto dalla faccia che ci ha fatto, della considerazione fatta dall'ascoltatore che dice nessuno mi sa dare una risposta. Guardi che è vero, molti ascoltatori ci scrivono da chi vado per farmi spiegare bene qual è la mia storia. Non sono neanche soddisfatti della consulenza data dagli sportelli IMSS molto spesso, e purtroppo è così. Quindi Carbone, o voi aumentate i vostri dipendenti e veniamo tutti da Progetica, mettetevi, però anche per voi immagino formare delle professionalità che siano in grado di dare risposte su questo terreno è anche per voi immagino un bel investimento. Perché spesso non si tratta tanto di prendere un libro da studiare per approfondire le regole, si tratta proprio dell'esperienza di vedere casi e di trovare regole che, come si sa, in Italia sono sempre leggi che si sovrappongono, che si modificano. Che la legge poi sia stabile per un po', perché mettiamoci questo di tema. Assolutamente, l'ascoltatore ad esempio fa parte del mondo dei medici, l'EMPAM è una cassa previdenziale che negli ultimi anni ha avuto delle necessità di riforma grandissime per garantire la sostenibilità della cassa stessa, e quindi sono regole che si evolvono e si modificano, e purtroppo a livello intuitivo è semplice, io voglio sommare gli anni della mia carriera, punto. Forse sarà molto semplice in futuro per chi è lavoratore contributivo, perché si tratta solo di sommare contributi. È molto più complicato per chi invece ha un sistema di calcolo sia contributivo che retributivo. Uh-huh. E allora si entra in tutte queste situazioni. Per Paolo, quindi? Allora, saremo di fronte a una situazione di ex INPDAP, quindi oggi INPS, e di una delle casse dei professionisti, come appunto medici, ma potrebbe essere anche ingegneri, architetti. Allora, per queste situazioni si potrebbe trattare o di ricongiunzione, che era il primo esempio che abbiamo fatto, quindi di spostare tutta la storia contributiva onerosamente in una delle due situazioni. Al momento. O di totalizzazione, anch'essa vale per i liberi professionisti, che invece vuol dire un istituto particolare con delle regole sul quando andare in pensione e sul valore dell'assegno ricalcolato tendenzialmente col sistema contributivo. Queste sono le due possibilità. Il cumulo ad oggi non comprende i liberi professionisti, come sembrerebbe il caso dell'ascoltatore. Senta Carbone, senti Andrea, allora quando conviene farsi una domanda su se sia il caso di fare cumulo, totalizzazione, ricongiunzione, più ci si avvicina al momento del pensionamento o quando si ha l'idea di avere una situazione professionale stabile, anche se si è, io per esempio ho l'idea di rimanere a fare questo lavoro, di continuare a versare fino alla fine della mia vita professionale a questo istituto di previdenza, e quindi questa può essere l'età giusta in cui pensare di accorpare la mia precedente storia pensionistica, oppure aspetto ancora un po', a prescindere dalle decisioni del governo? Allora, la ricongiunzione, l'abbiamo detto, sicuramente va esercitata con cautela, perché può essere fatto una sola volta, ecco. E quindi è un istituto, quindi, che tendenzialmente tema, ecco, va a chi è molto sicuro di quello che sta, chiaro, per accadere. Gli altri istituti sono degli automatismi, essendo gratuiti, e sono tendenzialmente istituti che vengono fatti quando ci si avvicina al momento, okay, della pensione, ma questo anche mi per posso motivi... rinviare questa decisione al momento, mi prendo ancora un po' di... Sì, perché poi le regole possono cambiare, quindi se no ci troveremo magari come coloro che stanno iniziato a pagare per la ricongiunzione e poi trovano, eccola, una legge là, che cambia. Infatti, non giriamo il coltello nella piaga. È molto delicato, in certi casi può qual è il motivo di fondo per cui bisogna fare o ricongiunzione o totalizzazione o cumulo? È perché abbiamo una carriera estremamente frastagliata, e se una delle mie storie contributive da sola non basta a consentirmi di andare in pensione, ecco che devo iniziare a pensare, certo, a uno di questi tre istituti. Chissà che storia previdenziale ha il nostro premio Nobel dal Giappone. Vivono un sacco di anni. Di quello sì, sono molto longevi. A un giapponese, come anticipava dal nostro GR, è stato assegnato il Nobel. Lo commentiamo con la nostra esperta Adriana Albini, direttore scientifico della Fondazione Multimedica Onlus. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il nostro Nobel di quest'anno si chiama Yoshinori Oshuni, e il Nobel gli è stato assegnato per aver scoperto il meccanismo dell'autofagia, che è una sorta di meccanismo, un processo di riciclaggio delle cellule, che è fondamentale per anche eliminare o riciclare degli agenti patogeni dannosi. Questo è quanto sinteticamente ho capito, ma ci racconta che cosa di buono e di interessante per la nostra salute, per la ricerca, gli studi del Nobel? Sì, volentieri. Allora, l'autofagia è una, diciamo, disciplina molto di moda, nel senso che negli ultimi anni tanti ricercatori se ne sono occupati. La parola stessa dice mangiare se stessi, è un meccanismo per cui la cellula, quando ha una carenza diciamo di energia o mancano il nutrimento intorno, si mangia un po' da sola, consuma delle sue parti e quindi in qualche modo sopravvive. E quindi questo è importante, per esempio, non so, per la rigenerazione del muscolo, eccetera. Chiaramente invece è un meccanismo negativo quando avviene nei tumori, perché se noi cerchiamo di ammazzare, affamare un tumore, questo sopravvive perché si mangia se stesso e dopo riparte, e quindi ha una doppia faccia, no? Buona e cattiva. E il giapponese, diciamo, che ha ricevuto il premio, è stato tra i primi a scoprirsi di questo. Lui è un signore che ha di adesso 71 anni, però i giapponesi non invecchiano mai, quindi sono e quindi sempre... andrà ancora avanti a lungo nelle sue ricerche. Fa un po' di autofagia e quindi anche lui. E un'altra cosa